Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e otto minuti, di nuovo inizia Focus Economia e di nuovo con Sebastiano Barisoni a raccontare la giornata economico-finanziaria. I temi di questa giornata, al di là delle borse che recuperano rispetto a ieri, anche se non tutto, però insomma più 0,90% l'S&P MIB, più 1% il MIBTEL, Parigi è negativa dello 0,3%, Francoforte invariata, Londra meno 0,2%, quindi Milano registra tutto sommato un buon dato, visto che la più positiva delle borse europee, e i motivi si chiamano ancora una volta, in questo caso, banche, ma soprattutto oggi titoli legati all'energia e Telecom e Fiat. Telecom guadagna il 4,80, Fiat il 3%, Saipem il 2,7%, Enel il 2,7%, Eni il 2%. Bene anche dei generali, più 1,80%, la Popolare di Milano guadagna quasi l'1%, poi c'è Mondadori più 2,9%, le Campari più 2,7% e Alleanza più 2,30%, citiamo anche Finmeccanica più 1,90%. Chi perde? Beh, Realizzi, dopo settimane intere di crescita, oltre il 200% di rialzo per il Banco Popolare dai minimi toccati a inizio marzo, e oggi qualcuno va a vendere, meno 6% il Banco Popolare a 6,82 €, Bulgari meno 2,6, Ubibanca meno 2,3, Ansaldo meno 2,1, Impregilo meno 1,7, ST Microelectronics meno 1,3 come Mediaset e come le CIR. Ancora meno 0,80 SNAM, meno 0,70 Pirelli, meno 0,60 Intesa San Paolo, meno 0,5 Unipol. L'euro su dollaro a quota 1,37 quasi, 1,3650. E ancora i temi, dicevamo, oltre alla borsa. Ci occuperemo in apertura del ruolo degli immigrati. Oggi molti articoli su questo. Chiaramente sono due notizie molto diverse. Da un lato c'è la polemica tutta politica, di cui non ci occupiamo, sulle le leggi e i provvedimenti contro l'immigrazione clandestina, che sono una cosa, però questo ha dato spunto a molti giornali, incluso Sole 24 Ore, per ragionare sull'apporto degli immigrati all'economia del paese e anche su quelle che sono le lezioni che si possono ottenere dall'esperienza degli altri, per cui nel caso specifico avremo ospite Alberto Lesina, che oggi su Sole 24 Ore ricorda anche le criticità emerse dall'esperienza americana. Poi nella seconda parte del programma, dopo i mercati, ci occuperemo di un settore industriale. Ieri il dato della produzione industriale segnalava difficoltà forti, non solo nei primi tre mesi dell'anno per le quattro ruote, ma anche per altri settori, tra cui l'acciaio. Pubblicati oggi i dati, poco fa, da parte della nuova associazione che riunisce i produttori d'acciaio, e i primi tre mesi sono stati pesanti, anche se va detto in linea con il resto dell'Europa, meno 40% la produzione di un settore che da noi vuol dire 70.000 quasi occupati diretti e 110.000 compresi gli indiretti. Ancora nella seconda parte del programma tratteremo invece il tema molto molto da risparmio dei bot da un lato e dei mutui dall'altro. Perché? Perché da un lato abbiamo visto oggi i bot arrivare al rendimento minimo storico, e lo anticiperemo, dall'altro invece c'è in parecchie ricerche l'evidenza che è vero che i mutui a tasso variabile si siano abbassati, e comunque i mutui praticati si sono abbassati, ma sicuramente non quanto è calato il costo del denaro per le banche, quando le banche devono ottenere denaro in prestito, e quindi non c'è solo l'Euribor ma altri meccanismi. 349-238-6666 per i vostri sms. Le notizie in breve. Allora, il petrolio è tornato, ahimè, a $60 al barile, e come la borsa riparte, come la crisi tocca il fondo, stando a quello che leggiamo, riparte anche la speculazione sul petrolio. Ricordo che ieri il presidente dell'Unione Petrolifera Italiana, De Vita, aveva detto, ma insomma non ci sono motivi, la domanda è debole, l'economia è ancora stagnante, se non, anzi in recessione, e la produzione è alta, eppure la speculazione torna, vola $60 al barile petrolio per la prima volta dall'11 novembre scorso. E non a caso appunto tutti i titoli petroliferi legati all'energia vanno bene, e partono subito anche i rialzi per la verde, per il gasolio, con una celerità, poi qui bisognerebbe capire perché i futures valgono solo quando il petrolio cala e non quando il petrolio sale, ma vabbè. Come ha toccato i $60, esso ha rivisto il prezzo della benzina a 1,256 euro al litro, il gasolio a 1,104 euro, Shell la verde l'ha portata a 1,258 euro e il diesel a 1,105 euro al litro. Ma sta cosa è pazzesca, perché ogni volta che invece il petrolio cala ci hanno sempre risposto i nostri ospiti che bisogna aspettare perché sono contratti a futures, quindi per i mesi futuri, e quindi il prezzo incorporerà i cali più avanti. Ecco, vabbè, non si capisce perché invece quando sale il meccanismo dei contratti futuri non valga più. I misteri dei mercati. Euribor scende all'1,29%, nuovo minimo storico per il tasso interbancario, e diciamo dei bot ancora giù, rendimento dei bot trimestrali lordo e su base annua chiaramente al minimi, veramente praticamente il rendimento medio ponderato è allo 0,88%, già ad aprile vi fu un'asta in cui il rendimento medio lordo ponderato era all'1,05%, e anche in calo i rendimenti dei bot annuali, il rendimento passa dall'1,36% all'1,13%. Se poi si va a vedere le tasse che vanno pagate e le commissioni bancarie, praticamente l'incasso per un bot annuale secondo l'Assium è dello 0,69% come rendimento netto in un anno. Capirai, ho capito che l'inflazione è bassa, ma siamo a meno della metà dell'inflazione ufficiale. L'economia cinese, le esportazioni sono in calo per il sesto mese consecutivo, meno 22% rispetto a un anno prima, e per cui è soprattutto un dato provocato dalla debolezza della domanda in Europa e negli Stati Uniti, ma insomma soffre anche la Cina dalla recessione economica in atto, visto che un meno 22% nell'export cinese è una cifra storica, e poi è il sesto mese di fila. Nel frattempo, se può interessare, la Cina ha superato l'Italia nel mercato mondiale della compravendita delle opere d'arte, è salita al quarto posto nella classifica dopo Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia. Allora, il Fondo Monetario Internazionale si aggiudica oggi un animale che era un po' in letargo da un po' di tempo. Perché? Perché io capisco tutto, però insomma il Fondo Monetario Internazionale si è svegliato un po' tardi e poi cerca di recuperare con una bella iniezione di pessimismo. Dice oggi la grave recessione in atto in Europa potrebbe durare fino all'inizio del 2010, seguita però da una graduale ripresa per la quale sono essenziali ulteriori azioni sul fronte politico. Ancora più coordinamento, ancora più azioni politiche, soprattutto nel settore finanziario, per restituire fiducia. Le perdite del mondo finanziario devono essere riconosciute in modo credibile, cioè messe a bilancio, capisco io, in maniera chiara e trasparente, e per quello che riguarda l'Europa, le istituzioni finanziarie in grado di sopravvivere vanno ricapitalizzate. Ora si risveglia un nostro animale che un po' che non sentivamo, anche perché ci chiediamo dove fosse il Fondo Monetario fino a un anno fa. Vai Gufo. Insomma, si sveglia tardi il Gufo, ma anche il Fondo Monetario non ha scherzato in questo anno e mezzo, visto che non ricordiamo grandi appelli prima dello scoppio effettivo della crisi, visto che vengono pagati anche per questo. ci permettiamo modestamente di dire si svegliassero un po' prima, in maniera molto molto, diciamo così, modesta, glielo diciamo, però insomma, ogni tanto anche avvisare prima dello tsunami non sarebbe male. Andiamo avanti. Fiat Opel, il gruppo automobilistico russo GAZ, ha confermato l'interesse per l'acquisto di Opel assieme alla canadese Magna e a Sberbank. Ancora per quello che riguarda la vicenda Opel, il commissario per la concorrenza Neil Kroes ha detto: saremo molto trasparenti nel giudicare se tutto sarà in linea con le norme europee riferito alle offerte, ma insomma non c'è nessuna novità di rilievo oggi, perlomeno quelle ufficiali. Sul fronte auto, Nissan registra una perdita di esercizio nel 2008 a 1,76 miliardi di euro, il primo rosso sotto la guida di Carlos Ghosn. Andiamo a chiudere con Mediobanca. Cala bruscamente l'utile netto nei primi 9 mesi, quelli che si sono chiusi col 31 marzo, da 783 milioni dell'anno scorso a 39 milioni appena. Una buona notizia arriva dalla regione Calabria, perché oggi la regione Calabria e la società milanese LNG Medgas Terminal hanno firmato un protocollo per realizzare un rigassificatore a Gioia Tauro. I lavori potrebbero iniziare già a fine 2009 e finire entro il 2015. Un investimento di circa 2 miliardi di euro che dovrebbe creare oltre a 100, forse 125 posti di lavoro, 500 compresi l'indotto, diciamo, dovrebbe essere un ulteriore elemento per liberare l'Italia da quell'approvvigionamento di gas fatto solo di tubi, di pipeline. Sentiamo i vantaggi per il territorio come espressi dal presidente della regione Calabria, Agazio Loiero. Avere il gas a buon mercato, che è il primo vantaggio per il territorio, poi la possibilità di impiego di manodopera, avete visto 600 nel corso della costruzione e al picco 1000, e poi soprattutto avere la sicurezza che l'impianto sarà tecnologicamente avanzato, che non darà il minimo problema ambientale al territorio. Dunque, al 349-238-6666 già ci chiedete della trimestrale Enel, la stiamo attendendo noi, anche noi, dovrebbe uscire a minuti, intorno alle 5:30, così come vi daremo anche l'aggiornamento del Giro d'Italia, che dovrebbe anche oggi, la tappa dovrebbe concludersi all'interno di Focus Economia. Vedo che alcuni si lamentano del gufo, al posto di mettere animali e canzoni, Barisoni potrebbe essere più serio e fare il giornalista, se ne è in grado. Ma non lo so, mi insegnerà lei, io intanto vado avanti e partiamo con il primo tema che riguarda, immagino, un elemento giornalistico, cercherò di fare il possibile, cioè il ruolo dell'immigrazione nell'economia italiana. Chiaramente, lo ripeto, stiamo parlando di immigrazione regolare. E questo l'ho preciso perché le polemiche tutte politiche tra l'ONU, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e il governo italiano, l'ONU ha espresso grave preoccupazione per il rinvio in Libia di migranti intercettati soccorsi in mare. Sullo sfondo c'è la legittimità o meno dell'asilo politico di alcuni di questi immigranti. Ancora poi abbiamo letto le dichiarazioni del Presidente del Consiglio per quello che riguarda l'Italia multietnica. Ancora abbiamo visto la polemica con l'Europa. Però questo riguarda veramente il dibattito politico. È stato spunto però oggi sui giornali, su moltissimi giornali, per fare anche il punto, lo stato dell'arte, di quello che è il ruolo degli immigrati, regolari nel nostro paese. Che sono 3 milioni e mezzo, ossia il 6% della popolazione italiana, ma rappresentano il 10% del PIL. Questo già la dice lunga, quasi il doppio rispetto alla proporzione numerica. La fetta del leone la fa l'edilizia, con 1,5 milioni di lavoratori regolari, stiamo parlando, e poi le badanti, incluse le babysitter, 700.000. Non parleremo dei quasi, si stima, 600.000 immigrati irregolari, perché se uno è irregolare, dopodiché altra cosa è il dibattito politico su come regolarizzare l'immigrazione. Dicevo, producono tra il 9 e il 10% del nostro PIL, cioè tra i 130 e i 140 miliardi di euro, e hanno anche un altro vantaggio che si può e non si può dire, cioè tendono a non andare in pensione in Italia e quindi a non gravare poi sull'INPS. Hanno anche un alto tasso di occupazione, il 67%, e pagano 3 miliardi e 7 all'anno di IRPEF, più 7 miliardi di contributi previdenziali, che non spesso, diciamo, la tutta vedranno, perché il nostro sistema non è così efficiente come quello di altri paesi europei. Tutti i dati, comunque, prima delle domande e dell'analisi di Alberto Lesina, le domande al 349-238-6666, tutti i dati in questa scheda. Pari al 6% della popolazione italiana, i 3,5 milioni di immigrati regolari producono quasi il 10% della ricchezza del nostro paese. Lavorano soprattutto nell'edilizia, dove se ne contano più di 1,5 milioni, oppure come badanti. Quelle regolari sono circa 700.000. Periodicamente si aggiungono altri 100.000 occupati stagionali, impiegati prevalentemente in agricoltura. Accanto ai lavoratori dipendenti c'è poi una nutrita e in continua crescita avanguardia di stranieri che sceglie la strada del lavoro improprio. Oggi come oggi sono circa 280.000, vale a dire il 7% del totale, le imprese individuali gestite da stranieri. Le concentrazioni più forti si registrano in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana, specialmente nei dintorni di Prato. In tutte queste zone, le imprese gestite da immigrati sono oltre una ogni 10. Viceversa, è molto più bassa la presenza al sud, dove mediamente non si va oltre un'impresa ogni 20. Quando decidono di mettersi in proprio, i lavoratori stranieri lo fanno il più delle volte aprendo un negozio, come dimostrano le oltre 100.000 saracinesche alzate sinora. Molto gettonata anche l'edilizia, dove si contano 66.000 imprese create da immigrati. E poi l'attività manifatturiera, specialmente nella fabbricazione di vestiti e scarpe. Se questi sono i settori preferiti, va detto che la presenza straniera si sta via via allargando a tutti i tipi di attività. Si contano, ad esempio, 1.300 punti di intermediazione monetaria e 6.300 tra alberghi e ristoranti gestiti da stranieri. Molto spesso la scelta del tipo di attività è strettamente legata all'etnia. Se nella manifattura i cinesi la fanno da padrone, nell'edilizia è invece molto forte la presenza albanese, mentre nel commercio prevale quella marocchina. Allora, grazie Dario Ricci, i nostri aggiornamenti sul giro, la scheda l'avete sentita, stiamo parlando dell'apporto dell'immigrazione regolare per quello che riguarda gli immigrati. Lo dico perché era immaginabile, per carità, c'è chi scrive, mi viene un po' a ridere, però insomma... lo sapevo, il comunistone Barisoni col cuore a sinistra e il portafoglio a destra, se li porti a casa sua gli immigrati, visto che li ama tanto. E vabbè. Vabbè, fa anche caldo fuori oggi. Allora, andiamo avanti, perché scattano degli automatismi. Stiamo parlando degli immigrati regolari, e che rappresentano il 10% del PIL. Io non voglio nemmeno aprire la polemica, perché ho il massimo rispetto per l'intelligenza della maggior parte dei miei ascoltatori. La polemica del fatto che 700.000 badanti esistono perché forse giustamente le italiane vogliono fare altro, e che 1,5 milioni di migranti nell'edilizia esistono perché giustamente, legittimamente, gli italiani vogliono fare altro, così come 100.000 immigrati che arrivano ogni anno a raccogliere pomodori e quant'altro nei nostri campi. Il tema però c'è tutto, perché anche di fronte a un'immigrazione regolare il problema di integrare quello che è un apporto economico con poi la condivisione e il consenso o comunque la stabilità, la coesione sociale è un tema delicatissimo. Scrive oggi Alberto Alesina, che insegna economia a Harvard e alla Bocconi ed è anche editorialista del Sole 24 Ore, scrive oggi in prima pagina su Sole 24 Ore: la politica verso l'immigrazione non va vista solo come un problema di ordine pubblico, ci servono politiche di integrazione che non sono certo facili, ma attenzione, quando il governo americano, e qui si rifà alla crisi dei mutui subprime, cercò come metodo per integrare gli immigrati, far comprare case ai nuovi immigrati, si arrivò al 2007 alla più alta percentuale di immigrati di prima generazione nella storia americana che possedeva una casa. E questo, anche questo, portò poi alla bolla dei mutui subprime. E allora, laicamente, senza posizione politica e senza ognuno si faccia le idee che vuole, noi ci occupiamo di economia. Alberto Alesina è in collegamento con noi da Harvard. Buonasera, professore. Buonasera. Lei giustamente, a mio avviso, sottolinea il fatto che l'immigrazione non è né male né bene, complessivamente presa, non è neanche neutra. Dei problemi li pone. Abbiamo capito che dal punto di vista economico sicuramente va in molti casi a coprire un buco e apporta il 10% del PIL italiano. Lei oggi ricorda giustamente che si può imparare qualche lezione, con tutti i distinguo del caso, dal paese che storicamente più di ogni altro è stato, ha generato anche il termine melting pot, è stato luogo di immigrazione, ossia gli Stati Uniti. Che cosa possiamo imparare? Perché lei quattro punti li mette in evidenza. Iniziamo dal primo, che è quello forse meno economica. Lei dice: affrontare il problema dell'immigrazione e dell'integrazione ignorandolo porta ad adottare politiche basate sull'illusione e non sulla realtà, quindi a politiche controproducenti. Che cosa vuol dire? Voglio dire che bisogna partire dal fatto, magari triste, però che è un fatto, cioè che la gente, diverse etnie, nazionalità, religioni, eccetera, collaborano tra loro, si fidano tra loro, in generale si hanno rapporti meno facili che persone della stessa razza ed etnia. Quindi ignorare questo fatto come se non esistesse porta a basare delle politiche sull'illusione di un mondo perfetto che non c'è. Quindi l'immigrazione e le differenze etniche creano dal lato dei vantaggi economici di cui anche la sua scheda dimostrava, e gli Stati Uniti sono un paese di straordinario successo nella storia, basato appunto sulla multietnicità, che ha portato creatività, innovazione e tanti skills diversi nel paese. Dall'altro la stessa multietnicità ha creato problemi razziali, anche qualche volta scoppiati in violenza, quindi problemi difficili da risolvere. Quindi in questo senso bisogna basarsi su una visione realistica dei problemi, dei costi, dei benefici della multietnicità. Poi, dopo le informazioni metro, la pubblicità, professore Alesina, arriveremo anche agli altri aspetti più economici. Però c'è una cosa che a me ha impressionato nel suo ragionamento. Dice, è come se dicesse: attenzione, che comunque qualunque ragionamento poi pragmatico, e l'America è con tutti i difetti un paese pragmatico, deve partire dalla considerazione che l'immigrazione non ha mai effetti neutri. Cioè, lei fa l'esempio, insomma, essere solidali con uno della tua etnia è molto più facile, è brutto dirlo forse, che essere solidali con qualcuno che non appartiene alla tua etnia, che non senti come parte della tua cultura. Il primo problema che pone nel conflitto è sul welfare. Il welfare è sicuramente, credo che ci siano già degli episodi ancora poco, se vogliamo, coordinati, ma che stanno crescendo anche in Europa, in cui proprio nel momento in cui i poveri, giustamente o ingiustamente, vengono percepiti come immigranti, e come diceva la sua scheda, in realtà gli immigranti regolari lavorano e producono e forse non godranno neanche completamente dei benefici del welfare italiano, ma nella misura in cui si percepisce, giustamente o ingiustamente, che le spese, che nelle nostre tasse finiscono per avvantaggiare delle persone diverse fra noi, cioè immigrati di prima generazione, andiamo a dire no, questo non lo vogliamo fare, allora ritiriamo i remi in barca sul welfare. E come dicevo nell'articolo, nella misura in cui questo serve a ridurre degli eccessi, delle irrazionalità, degli sprechi nel sistema di welfare, ben venga. Però l'importante è che poi non si discrimini tra italiani, diciamo, DOC e immigrati regolari di prima generazione. E arriveremo a questo nella seconda parte, perché lei in effetti in un passaggio dell'articolo dice: i generosi sistemi di sicurezza sociale della vecchia Europa saranno messi a dura prova. E questo è un tema, perché insomma, l'Europa è da sempre un continente che ha un welfare spesso anche invidiato, lo si può dire. Però un welfare importante, dei sistemi di garanzie sociali importanti. Meteo e pubblicità, però devo darvi due aggiornamenti in diretta. È uscita l'utile dell'Enel, più 101%, l'utile netto nel primo trimestre dell'anno, meno 1,5% i ricavi. Complimenti all'Enel. E ancora, secondo il numero uno Fulvio Conti, la crisi dell'economia non pregiudicherà la redditività. Nel frattempo, di questo parleremo dopo nei mercati, stanno crollando i titoli di General Motors a New York, meno 20%, qua si va verso la bancarotta pilotata per GM se non cambiano le cose. Il titolo vale $1 e non valeva così da 76 anni a questa parte. E meno male che il gufo l'abbiamo già usato. ...17:39 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, 349-238-6666 per i vostri sms. Io ho fatto i complimenti all'Enel, sì, complimenti è un'espressione, alcuni scrivono complimenti ai clienti, vabbè, siamo d'accordo, ci mancherebbe, anche se riuscire a portare a casa un utile netto del 101%, oggettivamente anche merito dei manager, però... sicuramente anche di chi paga le bollette. Professor Alesina, c'è un altro aspetto del suo articolo, così poi concludiamo. Oltre a prendere atto a destra e a sinistra, senza ideologismi, che un processo di immigrazione storico comporta poi una ridefinizione del welfare, è inutile pensare che tutto resti come prima, né pensare comunque di chiudersi a riccio, e che comunque la solidarietà è più facile, è inutile anche qui fare le mezze vergini che non esistono in nessun campo, la solidarietà è più facile quando ti senti culturalmente vicino a una persona, storicamente, non come giudizio. L'ultimo aspetto che lei tocca riguarda anche la selezione di questi immigrati, e cioè le si chiede perché nella sua università Harvard più della metà dei dottorati sono concessi a studenti non americani che poi si fermano in America, e invece da noi questo non si riesce a fare. Non sarà che il problema italiano è che la scelta fatta e le offerte di lavoro proposte siano sempre state di bassissimo profilo e qualificazione, e quindi poi la percezione collettiva dell'immigrato è una percezione che ricordo più quella che avevano gli americani degli italiani o degli irlandesi a inizio Novecento? Sì, sicuramente, ed è proprio questo il punto fondamentale, che un paese per diventare multietnico in modo che abbia successo e non l'immigrato non venga visto come un nemico, è proprio questo, che diversi gruppi di immigrati arrivino e si inseriscono in vari livelli del sistema sociale produttivo del paese. Quindi quando avremo non solo lavoratori e badanti, ma anche dirigenti, impiegati e politici addirittura che sono di etnie diverse, l'immigrazione verrà accettata anche meglio, ci sarà un migliore inserimento e ne trarremo tutti i vantaggi del caso. Quindi bisogna cominciare a pensare al più presto possibile come trattare l'immigrazione, non solo come il problema di ordine pubblico di tenere fuori gli immigrati illegali, ma di come usare dei metodi anche di selezione per attirare un pool di immigrati adatto alle non solo alle esigenze del mondo del lavoro, ma anche adatto alle esigenze di creare una società multietnica che funzioni, perché credo che, come dice lei, sia impossibile che l'Europa si chiuda a riccio perché sarebbe controproducente, perché avremmo solo poi un enorme aumento di immigrati illegali e la cosa sarebbe ancora peggio, quindi bisogna gestire questo flusso in modo da creare un pool di immigrati consistente con le necessità del mondo del lavoro e che poi progredisca, inserisca a tutti i livelli. Sì, c'è l'altra ipotesi, professore, cioè che, come è avvenuto anche in America, la prima ondata di immigrati veneti, e non solo, ci mancherebbe, anche nel nostro mezzogiorno, ha fatto i lavori più bassi, poi i figli di prima generazione, quindi immigrati di seconda generazione, hanno fatto una scalata sociale e poi si è arrivati alla terza generazione che ha occupato anche posti di rilievo. Forse è un problema anche di tempo, oltre che di selezione all'ingresso. Sicuramente è un problema anche di tempo, però è un processo che va appunto guidato, gestito con politiche adeguate. Penso che il mio articolo di oggi sul Sole fosse un po' un richiamo al fatto che ci stiamo pensando troppo poco a questo tipo di problematiche. Sicuramente lei ha perfettamente ragione, però rimane anche il fatto che già oggi certi tipi di centri di ricerca, università, industrie, eccetera, negli Stati Uniti attraggono direttamente, se non nella terza generazione ma in prima generazione, scienziati, tecnici, studenti da tutto il mondo. Non c'è motivo per cui le università europee non possono, e i centri di ricerca europei non possono fare altrettanto. Quindi sicuramente la terza generazione dell'immigrato albanese che è arrivato con un lavoro umile lo vedremo magari come professore universitario, ma non c'è nessun motivo per cui già da adesso non possiamo prendere professori universitari, per fare un esempio. Sì, allora ci sono due problemi poi anche di carattere legale, perché tutto questo passa attraverso anche delle leggi. E da un lato ha ragione chi dice: ma da noi Barack Obama non sarebbe mai potuto esistere perché da noi vige il diritto di sangue. Cioè, sì, c'è un elemento un po' paradossale, ma non possiamo parlarne oggi. La moglie di Lula, presidente brasiliano, può votare in Italia perché è figlia di immigrati italiani e non ha mai vissuto in Italia in vita sua, quindi non so per che cosa voti, è brasiliana a tutti gli effetti. Però diciamo, una badante, una tata, un operaio che passa 15 anni in Italia, vive in Italia, paga le tasse regolari, non commette reati, non avrà mai la possibilità di votare in Italia perché non è di sangue italiano. È ovvio che questo, rispetto a altri paesi dove si diventa cittadini sulla base di un percorso e non di una discendenza di sangue, è un elemento di ostacolo. Non sto dando un giudizio prima che vi scateniate con gli sms, sto solo dicendo che è così. È un po' strano che la moglie di Lula possa votare per le elezioni politiche italiane non avendo mai vissuto qui, e chi magari ha contribuito per 15 anni, 20 anni regolarmente al PIL non possa nemmeno avere la speranza di questo. In secondo luogo, alcuni di voi scrivono: ma gli extracomunitari non hanno la cultura del lavoro. Ma a me non, quelli regolari a me non sembra. Cioè, non so, vogliamo ragionare sulla cultura del lavoro dei figli degli italiani degli ultimi anni, di certe iscrizioni a scienze della comunicazione piuttosto che a fare le veline in TV? Boh, non lo so. Attenzione ai luoghi comuni, perché poi torno indietro come un boomerang. E ancora scommetto che nel suo condominio non abitano stranieri. Guardi, adesso, non è, questo programma non è mai stato biografico, ma mio figlio viene di fatto gestito in larga parte da una tata extracomunitaria. Allora io dico una cosa: se ci fidiamo a lasciare i figli alle tate extracomunitarie o i nonni alle badanti extracomunitarie, non è che si possa poi sperare che, come escono di casa, scompaiono, non vivono più, non hanno più alloggio, non li incontriamo più in giro. Ma va bene così comunque. Grazie Alberto Alesina. Non vi dico che cosa ho scatenato con scienze della comunicazione, no? Era solo per dire che delle volte anche le scelte nostre vengono fatte sulla base così di voler fare tutti i giornalisti o la comunicazione, e sapendo che poi quelle sono corsi di laurea che purtroppo tendono a generare disoccupati. Vabbè, la borsa oggi Milano la migliore, devo dire, di tutte le piazze europee, perché alla fine guadagna lo 0,7% sull'S&P MIB e lo 0,90% sul MIBTEL. Parigi mezzo punto percentuale di calo, Francoforte meno 0,3%, Londra meno 0,2%, l'America perde lo 0,2%, quindi buona la giornata in Italia, visto anche lo scenario europeo. Il petrolio è tornato a $60 e subito la benzina con una sensibilità così unidirezionale, si è aggiornata, ha aggiornato i prezzi, euro a 1,36,3, quindi rialza anche l'euro. Telecom Italia più 5%, quasi 4,7% di rialzo, Mondadori più 3,90, Saipem più 3,50, Campari più 3,2%, Fiat più 3%, Enel più 2,4% e la trimestrale uscita a mercato quasi chiuso. 17,20 recita l'agenzia, più 101% l'utile a 1 miliardo e 900 milioni di euro nei primi tre mesi. Il margine operativo aumenta del 14%, e i ricavi invece in flessione e l'indebitamento finanziario è leggermente aumentato. Anche lì ho detto complimenti all'Enel, è successo di tutto, era una battuta, per carità. Allora, Paolo Paronetto, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Enel mi sembra ben accolta dal mercato, 4,31 euro, ma oggi c'è l'effetto petrolio, perché va bene anche Eni, più 2,4%, Saipem più 3,5%. Sul fronte opposto invece un po' di realizzi, ma era attendibile, sul Banco Popolare meno 6,80, UbiBanca meno 3,1%, su UbiBanca però ci sono anche notizie, diciamo, di mercato, Bulgari meno 2,3% come Ansaldo e le CIR, l'1,80 lo perde in pregilo, l'1,60 Mediaset, l'1,20 Unipol, l'1% ST Microelectronics e anche Unicredit. Allora, al di là del Banco Popolare, dove non penso ci siano novità e solo realizzi, parliamo di UbiBanca da un lato e dall'altra parte di Telecom Italia e Fiat. Partendo da chi è andato bene, Telecom Italia oggi ha guidato i rialzi per tutta la seduta, ha chiuso sopra quota 1 euro per la prima volta dal 17 aprile e il mercato in questi giorni continua a interrogarsi sulle indiscrezioni uscite nel fine settimana su una possibile fusione con Telefonica, ipotesi tra l'altro già smentita dalla società, mentre intanto potrebbe arrivare qualche novità sul capitolo della cessione degli asset. In giornata, dopo l'articolo uscito sul Sole 24 Ore, la società ha confermato di aver dato mandato alle banche per vendere il 49% di Telecom Italia Sparkle. Il Sole 24 Ore scrive che le banche in questione sono Mediobanca e Banca IMI e secondo appunto il quotidiano la società conterebbe di incassare fino a 1 miliardo, cioè la valutazione della società di Sparkle, quindi dovrebbe aggirarsi attorno al miliardo. Per quanto riguarda Fiat, il titolo anche oggi è stato premiato in attesa di novità sul fronte Opel, mentre la cordata capitanata dalla società Magna potrebbe avere fino al 20 maggio di tempo per presentare una nuova proposta ostile, cioè contrapposta a quella di Fiat, per acquisire Opel, e quindi in attesa di novità che dovrebbero arrivare entro la fine del mese, anche oggi i titoli sono stati premiati, mentre ieri la banca d'affari americana Morgan Stanley ha fatto un doppio miglioramento di giudizio sul titolo, portando il rating da underweight a overweight. Sul fronte opposto, oltre al Banco Popolare che appunto ha perso il 6,84% dopo il rally degli ultime settimane, anche UbiBanca ha perso il 3,1% chiudendo a 10,3 euro. Il titolo continua a risentire della trimestrale uscita sabato e ieri commentata dal vertice della società in conference call con gli analisti. In particolare ha pesato il calo pesante delle commissioni nel primo trimestre, che sono scese del 22%. Ieri Victor Massial, consigliere delegato, ha rassicurato sul tema dicendo che nel corso dell'esercizio il trend migliorerà, cioè che alla fine dell'anno non sarà un calo così marcato, ma evidentemente anche dopo la recente performance positiva gli investitori hanno continuato oggi a vendere il titolo UbiBanca. Invece se l'è cavata Mediobanca, perché ha guadagnato lo 0,6% nonostante un utile netto nei 9 mesi che si sono chiusi col 31 marzo, che è drammaticamente ridotto da 783 milioni a 39 milioni. Saras meno 66% l'utile del trimestre e i ricavi giù del 40%, comunque resta un utile su Saras a 25,3 milioni, ma oggi dicevamo i petroliferi hanno beneficiato del rialzo del greggio. Volete sapere quanto ha guadagnato il Banco Popolare dal minimo, i 2 euro e qualcosa, di inizio marzo? Ha guadagnato il 270%, per cui diciamo che un 6% di calo ci può anche stare. La trimestrale di Alleanza e anche l'effetto sulle generali. oggi Alleanza ha chiuso in rialzo del 2,02% a 5,5 euro e durante la seduta aveva accelerato proprio dopo la diffusione dei conti trimestrali. Il trimestre è stato chiuso con un utile netto in calo del 27,5% a 74,4 milioni, conti giudicati migliori delle attese dagli operatori di mercato e quindi che hanno premiato quindi il titolo con acquistandolo e quindi spingendo l'avviato di oltre il 2% e soprattutto spingendo i volumi sono stati molto elevati e il titolo dopo anche nell'ultimo mese la media giornaliera era stato di circa 2,6 milioni di pezzi scambiati, oggi ha chiuso con quasi 16 milioni di pezzi scambiati. Il rialzo di Alleanza ha trascinato anche il titolo della controllante Generali che ha chiuso in rialzo dell'1,44% sfiorando quota 17 euro in chiusura e Generali domani darà i propri dati di bilancio sul primo trimestre e oggi l'amministratore delegato di Mediobanca Alberto Nagel commentando durante la conference call ha annunciato di aspettarsi un ritorno all'utile nel trimestre per la partecipata Generali. Ancora i migliori e i peggiori, Eurofly più 33, Arena più 26, Ciccolella più 23,8, Banca Generali più 19. E i peggiori invece, oltre al Banco Popolare, Vivendi meno 5,90, Saes Getter meno 9,50, poca roba, Digital Brothers meno 5,4. Grazie a Paolo Paranetto, Radio Cori, Sole 24 Ore. Adesso c'è il GR, poi parliamo di bot da un lato e di mutui dall'altro. Un unico commento, perché non ne voglio più parlare, sul tema di apertura. Nessuno ha mai parlato degli immigrati irregolari e siamo d'accordo che nell'immigrazione irregolare ci sia una grossa quota poi di illegalità anche nei comportamenti, spaccio di droga e quant'altro. E siamo anche d'accordo, lo dico a chi scrive, che purtroppo dobbiamo aggregare diverse culture, che alcune culture hanno avuto dei comportamenti da sempre virtuosi, alcuni immigrati da alcuni paesi da sempre virtuosi, in altri ci sono stati più problemi. Ci stavamo occupando in apertura solo dell'immigrazione regolare, di chi è regolarmente in possesso di un permesso di soggiorno e lavora pagando tutti i contributi del caso. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia, dove adesso ci occuperemo del tema bot, visto che oggi sono scesi di nuovo al minimo storico, non rendono la metà, meno della metà dell'inflazione dell'Istat al netto di tasse e commissioni, si arriva allo 0,6% del rendimento in un anno di un bot appunto annuale, e anche dei mutui, perché insomma qualche indicazione sul fatto che il tasso medio sia sceso da febbraio, che era 5,1 al 5,10, ma insomma abbiamo visto scendere molto meno i mutui di vari gruppi, tutti inclusi, insomma lo spread è aumentato dall'agosto del 2008 al maggio del 2009 di quasi un punto percentuale. Lo spread è la differenza tra quanto costa il mutuo, quanto costa alla banca prendere soldi in prestito, quindi tasso Euribor ma non solo, e a quanto invece la banca presta i soldi, quindi anche nel caso di un mutuo. E i mutui in termini assoluti sono scesi, lo dico subito prima di innescare polemiche, le rate, però sono scesi meno di quanto non sia sceso il costo del denaro, visti i tagli consecutivi, continui, operati da tutte le banche centrali, quindi anche dalla BCE, visto che a luglio l'anno scorso eravamo al 4,25%, mo siamo all'1%. Ecco, la conseguenza di questo è che è aumentato lo spread, cioè la differenza tra le due cose, a vantaggio chiaramente delle banche. Adesso ne parleremo. Una notizia carina, non so se sia carina o no, diciamo che c'è un po' di giustizia al mondo, perché la principessa della mafia ha perso il suo castello, Gli uffici giudiziari infatti stanno per mettere i sigilli in America alla magione di Long Island di Victoria Gotti, che è la figlia prediletta tra l'altro del mitico John Gotti, mitico in senso negativo, il boss dei Clan Gambino. Insomma, ha smesso 2 anni fa di pagare un prestito da $600,000 e quindi ha perso il suo castello. Siamo tutti solidali con lei e addolorati per la perdita del castello della figlia di John Gotti. Il primo tema, anzi, di questa seconda parte riguarda appunto l'andamento dei titoli di Stato, poi andremo a parlare invece dell'andamento anche dei mutui. Eh sì, perché mentre la benzina oggi è tornata a salire, tutte ritoccate all'alto con un tempismo sospetto, i prezzi dell'Esso, della Shell, 1,104 per il gasolio, 1,256 per la benzina, 1,258 la Shell per la verde, 1,105 per il diesel, come conseguenza di un petrolio che aveva toccato per la prima volta dallo scorso 11 novembre i $60 al barile. Oggi si è tenuta anche l'asta sui bot e l'asta sui bot ha obiettivamente fatto registrare un nuovo minimo storico. Ora, ricordo a tutti che i titoli di Stato seguono l'andamento dei tassi di interesse nella parte corta della curva, cioè a un anno o giù di lì. E sostanzialmente come cosa succede? Aumenta il prezzo dell'obbligazione e quindi diventa meno conveniente di prima comprarla, rende meno comprarla. Praticamente la regola è sempre la solita: se i tassi sono ritenuti in crescita, aumenta anche nella curva, lo si vede, quindi sarebbero da preferire obbligazioni a tasso variabile. Quando ci si attende dei tassi in calo, sarebbero da preferire le obbligazioni e i bot e le obbligazioni a tasso fisso. Sotto l'1% i trimestrali messi oggi all'asta, riduzione di rendimenti medio ponderato allo 0,88% lordo. Il bot annuale tra l'altro passa dall'1,86% all'1,13% di oggi. E a questo punto il rendimento netto per i bot trimestrali è dello 0,36%, quindi al netto delle tasse, e il rendimento netto di un bot annuale è dello 0,69%, i calcoli li ha fatti Assiom. Visto che parleremo però anche di mutui, saluto prima il vicepresidente di Credit Suisse Lugano, Davide Sacchetti, buonasera. Buonasera. E per quello che riguarda i mutui, il direttore marketing di Mutui Online, Roberto Anedda, già altre volte ospite di Salvadanaio. Buonasera anche a lei, Anedda. Buonasera a voi, agli ascoltatori. Allora, dottor Sacchetti, la cosa più importante adesso non è... era immaginabile che il rendimento dei bot scendesse, visto l'ultimo taglio dei tassi di interesse all'1% in Europa. Come si muove la curva nel medio-lungo termine? Cioè, nel breve sappiamo che i tassi resteranno bassi, sappiamo anche che però, come vi saranno i primi segnali di un recupero dell'economia, le banche centrali, a partire dalla Federal Reserve e la BCE, dovranno cercare di evitare una bolla di liquidità, quella che secondo molti fu generata da Alan Greenspan e portò poi al disastro cui abbiamo assistito l'anno scorso, cioè eccesso di liquidità, eccesso di prestiti, costava nulla e si rischiava nulla a prestare denaro. Com'è la curva sul medio e lungo termine? Allora, la curva dei tassi sul medio e lungo termine è comunque leggermente inclinata. Ad oggi ci siamo riportati con una curva dei tassi in euro molto simile alla curva dei tassi americana. E il differenziale ad oggi è, come si diceva prima, molto basso, cioè arriviamo da un tasso a 3 mesi sotto l'1% per arrivare a un rendimento del decennale appena sopra il 3%. Quindi con un grosso cambiamento di scadenze, questo ci porta a un ritorno in termini di rendimenti poi reali veramente, veramente modesto. Ecco, per quel poco che ci capisco io, questo vuol dire che il mercato non si attende nemmeno in un periodo di tempo medio-lungo un aumento dei tassi significativo, dei tassi di interesse significativo, tale da giustificare appunto rendimenti più alti? esattamente, perché se noi facciamo un riferimento a quello che potrebbe essere l'andamento economico e pensiamo a un'economia in ripresa, tendenzialmente il rendimento a lungo termine, che potrebbe essere il decennale o il ventennale, dovrebbe essere molto ma molto più elevato rispetto a quello del breve termine, quindi con una curva dei tassi molto pendente. Ad oggi abbiamo una pendenza limitata con, come dicevo prima, una differenziale dei tassi molto modesta, quindi quello che ci si aspetta è non una crescita immediata dei tassi di interessi come da tutti i dati economici è facilmente prevedibile, e comunque la situazione economica è stagnante. Allora, secondo lei, perché, voglio dire, siccome le previsioni sono di un'economia che perlomeno in America dovrebbe tornare a crescere tra fine 2009 e inizio 2010, oggi anche il Fondo Monetario ha detto in Europa la ripresa si vedrà solo nel 2010, le previsioni che abbiamo visto, stante così le cose, sono di una crescita seppur modesta nel 2010, perché la curva dei tassi resta così bassa? Cioè, traduco, perché non si scommette che una volta che l'economia ripartirà l'America avrà il problema di, e anche l'Europa, di contenere l'inflazione, quindi tornerà leggermente ma inesorabilmente ad aumentare i tassi di interesse? Allora, questa previsione sicuramente c'è, però ad oggi prevale un'altra previsione, che è quella che l'economia non possa ripartire velocemente. Quello che abbiamo avuto sul mercato azionario nell'ultimo mese è sicuramente stato un incremento di tutti gli indici azionari a partire dalla Cina rispetto a tutti gli indici più a noi conosciuti, che è stato clamoroso, ma non derivante da un andamento dell'economia reale di pari livello. Quindi ci troviamo nella stessa condizione economica in cui ci trovavamo un mese e mezzo fa, ma con l'indice di borsa che ha performato molto bene. Questa incertezza si può verificare su un titolo che ha avuto delle performance enormi. Facciamo l'esempio di Fiat. Fiat è più che raddoppiata in questo periodo. I bond della Fiat ad oggi rendono il 13-14% annuo. Evidentemente il mercato non è così convinto che Fiat sia decisamente solida, perché sennò il suo debito renderebbe decisamente meno, ma ha premiato in modo importante il titolo. Quindi c'è una previsione di una ripresa economica molto lenta, ma la certezza che questo avvenga nell'arco del breve termine non c'è sicuramente. Beh, dopo le informazioni per chi è in viaggio, però vorrei capirla questa, perché o chi investe in obbligazioni, in BOT, in titoli di Stato, sbaglia e ci capisce poco, oppure il Fondo Monetario, la Commissione Europea, l'OCSE, i vari governi nazionali ci stanno raccontando frottole, perché insomma delle due l'una: o la ripresa arriva nel 2010, per carità non sarà una ripresa di quelle da libri di storia, però già insomma la parte si volterà pagina, e quindi poi è immaginabile che nel 2011 sia ancora meglio, e così allora i BTP a 10 anni questa cosa la devono inglobare, cioè devono inglobare un'idea di tassi in aumento da qui ai prossimi anni, oppure appunto stanno sparando così cifre in libertà i vari organismi internazionali. Di nuovo in diretta, allora dottor Sacchetti, poi arriviamo ai mutui, mi chiarisse questo aspetto, cioè non è che voglio sapere chi ha ragione, ma perché le previsioni sono di una ripresa 2010-2011 che va robustendosi e questa cosa non si vede nella curva dei rendimenti? Mi scusi, ma non lo capisco. Sì, allora, se come si diceva, questa ripresa, come si annuncia dai più grandi organismi internazionali, ci può essere dall'inizio del 2010, giustamente la curva dei tassi di interesse dovrebbe rispecchiare questo andamento, cioè il rendimento del decennale non dovrebbe essere al 3%, ma intorno al 4,5-5%, cioè iniziare a crescere. Questo porterebbe ovviamente a chi ha delle obbligazioni a tasso fisso con quelle scadenze a un decremento del prezzo della stessa obbligazione. Evidentemente ad oggi le idee non sono assolutamente chiare e le previsioni del mercato, sia sulla parte obbligazionaria sia sulla parte azionaria, non vanno nella stessa direzione. Come dicevo prima, il mercato azionario sta scontando una ripresa abbastanza nel breve termine, quindi nei prossimi 4, 5, 6 mesi, mentre il mercato obbligazionario non sconta né questa crescita né il fatto che l'aver stampato carta in modo molto importante, soprattutto in America, debba o con forte probabilità possa causare un rialzo dell'inflazione e quindi un rialzo dei tassi di interesse per tenere sotto controllo questa inflazione. Sì, mi scusi, ma adesso ho capito anch'io, cioè, l'ipotesi che si fa sul mondo delle obbligazioni è che ci sarà anche una ripresa, ma vista, adesso io traduco e forzo un po' il concetto, ma visti i danni creati da questa crisi non genererà inflazione. Allora anche qui bisognerebbe tornare alle basi dell'economia, ma è chiaro che se una ripresa avviene con un alto tasso di disoccupazione, con molta manodopera libera in giro, in America si arriva oltre il 10% di disoccupazione, è probabile che la ripresa non crei, perlomeno all'inizio, inflazione, perché non è che uno torna al lavoro dopo mesi o anni che non ce l'ha e si mette a spendere come un pazzo, perlomeno non la maggior parte delle persone. E quindi è immaginabile che se la Federal Reserve e anche la Banca Centrale Europea vedranno che non c'è inflazione, non toccheranno tanto i tassi di interesse verso l'alto. Di conseguenza i rendimenti scontano questa attesa. Spero di non essere stato troppo blasfemo nella mia ricostruzione. Ancora tutto questo, ma sarebbe un altro tema, non tiene in considerazione l'effetto petrolio, perché se qua i grandi geni di Wall Street e della City si rimettono a speculare sul petrolio perché non sanno dove mettere i soldi, oggi il petrolio è a $60 e quella genera inflazione, perché si chiama inflazione importata, ma la genera, perché il petrolio è benzina, gasolio, ma anche tutti i prodotti derivati. Dottor Sacchetti, prima di arrivare al dottor Anedda, mi dica una cosa, insomma, siccome guardando quelli che sono i tassi praticati e gli spread, cioè tutti i mutui variabili sono scesi come valore, però sono scesi molto meno di quanto non sia sceso per le banche il costo che ha chiedere denaro in prestito. E infatti lo spread, la differenza tra quanto costa le banche e quanto praticano loro la clientela, è raddoppiato in tutti gli istituti oggi riportati su alcuni giornali. Raddoppiato proprio in maniera quasi secca. Sì. Non è che in questo modo voi state recuperando, voi mondo bancario, le perdite realizzate da altre parti? Cioè aumentando lo spread uno ci guadagna di più e in questo modo risistema i conti? Allora, per è un dubbio, questo... è un sospetto, non è che... Sì. Per me questo si può palesemente vedere, e la risposta comunque è negativa, si può palesemente vedere dal prezzo delle obbligazioni e quello che le banche o le istituzioni finanziarie debbano pagare gli obbligazionisti che li sottoscrivono il debito. Noi abbiamo visto ad oggi, l'asta dei bot ne è un esempio palese, in cui un rendimento a 3 anni dei titoli di Stato rende il 3%. Se il titolo di Stato italiano, quindi con un rating A+, se faccio il paragone con un'emissione avvenuta oggi di Swiss Re, quindi un'entità finanziaria assicurativa svizzera, in cui il rating è comunque identico a quello dello Stato italiano, quindi A+, noi abbiamo verificato che il rendimento di Swiss Re deve pagare al mercato per farsi sottoscrivere il debito 6% contro il 3% dello Stato. Quindi il costo è il doppio di quello statale. Quindi secondo lei le banche non ci stanno guadagnando da questo calo del costo del denaro a livello europeo e invece calo più lento dei mutui per i clienti? Diciamo, le banche ad oggi per raccogliere denaro sul mercato non pagano quello, il costo del denaro del titolo di Stato, ma pagano un costo del denaro, come l'esempio che ho fatto, praticamente il doppio. Quindi questo maggior costo viene in parte sicuramente ribaltato sulla clientela. Un altro po' ci rimettono, vabbè. Ma no, perché sa com'è. Quindi abbiamo, non ce l'ho con lei, ma insomma, abbiamo sentito piangere anche i petrolieri, per cui siamo abituati, siamo rotti a tutto, come si diceva una volta. Dottor Anedda, è così? Perché a noi risulta che invece i mutui calino, ma molto molto meno di quanto l'Euribor e l'Euriris sia calato. Dunque, diciamo che vedendo quelle che erano le condizioni medie di mutuo in termini di spread applicate meno di un anno fa, diciamo nell'agosto del 2008, la gran parte degli spread, partendo dai migliori, erano sotto l'1%. Adesso i migliori spread partono dall'1,20, ma come ricordava lei poc'anzi, in alcuni casi sono proprio anche più che raddoppiati e superano il 2%. Adesso i migliori spread sono 1,20, 1,30, 1,40, ma alcune banche applicano spread anche superiori al 2%. Questo perché, questo lo diceva anche il dottor Sacchetti, la crisi ha colpito magari in maniera differenziata gli operatori bancari e alcune banche si trovano, diciamo, nell'impossibilità commerciale o nella non convenienza commerciale di applicare spread più limitati. È anche vero che rispetto ai massimi dell'anno scorso l'Euribor è sceso del 4% e il tasso della BCE dal 4,25 è tornato all'1, quindi al 3,25. I migliori tassi di interesse, ipotizzando un mutuo medio a 20 anni, sono scesi comunque del 3,8 nello stesso periodo, quindi quasi quanto l'Euribor. Però il problema è che rispetto ai dati medi, in questo momento ci sono fortissime differenze di spread, quindi anche di convenienza, a seconda della banca alla quale ci si va a rivolgere, perché ce ne sono alcune che sembrano essere state toccate molto meno, almeno per quanto riguarda la propria flessibilità sui mutui dalla crisi di questi ultimi mesi, se non addirittura anni, altre invece purtroppo, ma è un po' sotto gli occhi di tutti, in misura ben maggiore. Sì, però queste differenze non le vediamo, cioè tra chi aveva molte esposizioni e chi ne aveva poche. In realtà, come lei ricordava, la differenza negli spread è molto bassa, o no? Beh, diciamo, gli spread, rimanendo su banche italiane anche molto importanti, troviamo degli spread, come le dicevo, al 2% e oltre. Sempre rimanendo in banche italiane, il migliore spread è l'1,20, quindi comunque c'è una certa differenza. Siamo tornati un po' alla situazione degli spread che avevamo tra il 2004 e il 2005, quando ancora non c'erano stati gli ingressi di alcuni operatori stranieri particolarmente aggressivi e che avevano poi trascinato, diciamo, l'intero mercato verso spread sempre più contenuti. Però tuttora ci sono notevoli differenze tra alcune banche che riescono a essere più flessibili e a proporre comunque prodotti tutto sommato abbastanza appetibili, per quanto a livello di spread un po' più cari rispetto a un anno fa, e altre che in maniera secca effettivamente hanno raddoppiato lo spread che applicavano precedentemente. Quindi diciamo che per il cliente è un pochino più complicato orientarsi, perché deve valutare molte offerte, vedere bene di volta in volta chi effettivamente sia al meglio nel mercato in questo momento. Allora, poi alcuni di voi ci chiedono al 349, ma siamo in chiusura di programma, 349-238-6666, di alcuni tassi praticati non per i mutui ma per prestiti per l'acquisto. Sono chiaramente più alti, ci sono meno garanzie. Dopodiché un ascoltatore scrive: mi può far sapere che tasso è l'11,6% su un prestito per acquisto applicato ad un buon cliente dal Monte dei Paschi? Non lo so, bisognerebbe vedere che tasso le praticavano da cattivo cliente. Io non so come metterla. Chiaramente l'11,6 mi sembra quantomeno un po' altino, mettiamola così. Comunque, grazie anche per averci illustrato che la cosa più rilevante è come la curva non si stia muovendo, non si stia alzando nel medio e lungo periodo, la curva dei tassi. Al dottor Davide Sacchetti, vicepresidente di Credit Suisse Lugano, grazie al direttore marketing di Mutui Online Roberto Anedda. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. A voi tutti, buona serata.